Me ne duole. Me ne duole per quei gigli. Ma io devo dire certe cose. Il miraspo devo pur principiare a buttarlo fuori. Il spaccio che mi ha oppilato lo stomaco sarà un parto difficile. Dovrò ripercorrere gli oscuri cammini. Polluta dallo spiritato. Lo spiritato era grattato e tirato a prurigine dal plauso di un popolo di 44.000. Da un punto di vista scenico, quindi relativo al sentimento della pluralità, se voi dite massa. Avviene che la moltitudine ama e idoleggia l'istrione suo e così come gli è o par che sia, lo desidera. E porgeva egli alla moltitudine l'ardito della sua incontinenza buccale ed ella vi metteva a scuola di clamori e di folli gridi secondo ritmi concitati itturpissimi. Cuce! Cuce, cuce, cuce! La moltitudine! Che a dire di Messer Niccolò, amaro, ma è femmina! È femmina a certi momenti, ottiva già! Si urlava a quegli ululati l'amore e l'amoroso delirio ad accelerare i tempi e a sbrigare il cliente, torcendosi nel suo furore di sudore di entusiasta, mammillona si incoltiva per danaro. Tronfio a schiantare! A quelle prime strida della ragazzaia egli era già ebro d'un suo pazzo smarrimento. Simile ad alcolomane. Qui basta annusare un bicchiere da sentirsi preso e dato alla mercé del destino. Mio! D'una scelica evolvescenza il bombetta soltanto avea nerbo! Nella convenzione del mimo, da colmare la tromba vaginale della Bassaride, una bugia sporca sotto la tenebra delle anime, alla bocca, una bava incontenuta. Cuce, cuce, cuce, cuce! Capocamorra. Che distribuisce le coltella, ragazzi, sempre pronto da issupogiuolo a dismentire ogni cosa e a rimentire ogni volta. Questo 21 anno. 21 anni di boce e di urli soli del frenetico, come ululati d'un bieco lupo in tagliola, o di quei sinistri versi dei suoi compiacenti in ogni piazza e dei suoi bravi acclamanti. 21 anno, il tempo migliore per una generazione che è pervenuta a vecchiezza attraverso il silenzio. Questo qui, Madonna, aveva anche finito di parrucchiare quattro sue scolaresche certezze. A che sciampa me, che sciampa me? Ha fatto me, un parolaio da raduno commonitosi del più misero bagaglio di frasi fatte, che tolse ecco a discendere secondo fiume dietro al numero. A sbraitare, a minacciare i fuochi dei pagliai, a concitare ed esagitare le genti. E pervenne infine, dopo le sovvenzioni del capitale e dopo una carriera da spergiuro, a depositare in cattedra il suo deretano di Pirgo Polinice Smargiasso, adoppiato di Pallore Giacomo Giacomo, cioè sulla cadrega di presidente del consiglio in bombetta e guanti giallo canarino. Dell'Islam, fatali da maomettani, dei viadorini, a Malano, per la pompa e la priapata alessandrina. E la differenza la sapete qual è? La differenza che passa tra Lissandro Magno e codesto brav'uomo. Che l'Alessandro Magno gli è arrivata ad Alessandria col cocchio. Lui è arrivato col cacchio! Si tenne a 200 km di linea, riscappò via cosa fa che marmellate dell'ulcera, scipione africano del due di coppe. Tanto che... Ma ogni per ogni su un passeggio del... quanti sul novero. E d'altra parte, quanti tubercolotici, meschini, col cazzoritto. Fatevi un ritmo, dice Cottosi! Quanti cortici, quanti diabetici, quanti diabetici! Te tu dirai! Ma che rimestare codesto imbratto, di che sei schifito l'universo dove tanto dolore ne addosso di reggerlo appena. Deve aver l'anima la libertà felice della morte. Beh, ti dico, stati cheto. Resta morto! Il transito sta fuori a vita ragionevole, non potrà farsi se non prendendo l'incapace notizia delle oscure sentenze che scatenarono gli oscuri impulsi. Eros è alle origini della vita del singolo e della mente individua. Ed è fonte all'istinto plurale e alla sociale pragmatica d'ogni socialità. Una veridica storia degli aggregati umani e dei loro appetiti. Dico, una storia erotica dell'uman genere. Io credo ci rivelerebbero le cose inaudite. Altro da oh no, io non voglio udire certe cose. L'io collettivo è guidato ad autodeterminarsi e esprimere sé molto più dagli istinti o libidini vitali, cioè in definitiva da Eros, che non da ragione o da ragionata conoscenza. Questo non ovunque, non sempre, ma di certo ove si impaluda nelle sue giacenze morte la storia. In codesti lachi di storia grossa ivi Eros ammolla e più facilmente infracida e bestialmente gozza. Bada, non significo nel nome di Eros una pratica e spicciola di assolutezza. Che no. Vuoi intendere tutto il contrario. L'orgia bacchica di tutti i sussulti affettivi non mediati. Avidità degli onori e dei guadagni. Spedienti criminali da ignorare la vulva alla ganza. Fede finta, nei Vangeli, contraddittori l'un dell'altro, libidini travestite da patria e berce, trombe, ragli e spari di cannone. Voto. La causale del delitto. La causale del delitto è una causale non esclusivamente, ma prevalentemente erotica. Segna il prevalere d'un cupo e scempio Eros sui motivi di Logos. Il pragma della banda e del capo in testa è un pragma bassamente erotico. Un basso prurito, ossia un alubito di possesso, di comando, di esibizione. Si trattava per lo più di gingilloni, zuzzurulloni, senza mestiere. Dotati soltanto di un prurito e di un appetito che chiamavano virilità, che tentavano il cortocircuito della carriera attraverso la politica, intendendo essi per politica i loro comportamenti camorristici. Essi, con l'infilarsi un par di stivali da cavaliere appretato alle gambucce merce stortine, tentavano di scavalcare nella gerarchia. Farsi più avanti con uno zelo verboso e poliziesco. Erano i corticircuiti dell'ascesa. Ora, questa bassa prurigine non fu virilità conscia degli obblighi suoi, ma improntitudine di violenti disposti a tutto pur di darsi a casa una sovvenzione. Cominciavano con l'agitarsi nel guff. Era il seminario, la pepiniera delle spie. Facevano la spia a docenti e compagni. Fiduciari di gruppo, ossia ladruncoli concussori e spie cantonali a 21 anni. Federalisti padre a 25, prefetti a 28. Ho tutta la nazione, la posta in mano a questa ragazzaglia col motivo del ritornello. Giovinezza, giovinezza, primavera di bella. Speranzosa, fremente nell'attesa. Ora, tutto ciò è Eros, non Logos. Non nego alla femmina il diritto che la prediliga i giovani come quelli che sono i più feroci. Machiavelli, i più aggressivi sessualmente, cioè è suo diritto, anzi dirò suo dovere. Ma non nego che la patria chieda alle femmine di adempiere al loro dovere verso la patria, che è principalmente quello di lasciarsi fottere e con larghezza di vedute. Ma i giovani, ma se li portino a letto e non pretendano acclamarli i ministri e prefetti alla direzione di un paese. E poi la femmina adempie i suoi obblighi e le sue inclinazioni e non stia a rompere le tasche con codesta ninfomania politica. La politica non è fatta per la vagina. Per la vagina c'è il suo tampone, appositamente conformato per lei dall'eterno fattore, che lei è il toccasana di tutti i toccasana. E quando non è impestato, si intende? Ora, tutto ciò è turpe. Non Logos. Logos è stato buttato via di scena dalla Bassaride perché è inetto a colmare la di lei pruriginosa necessità. Ma la funzione di Logos non è quella di soddisfare le vagine, ma è quella di predisporre il generale andamento del laborioso incedere umano. Non sono le robuste cosce degli giovani, per quanto un po' pelose, che sfilano con le guide di Plotone lungo la riga bianca di via dell'impero a dover ispirare la politica di una nazione. Questo ispirarsi alle cosce, alzoncini corti, ai bei deretari mantegneschi degli uomini e dei cavalli, Eros ginnico e pittorico. Se tu vuoi mantegnesco, non Logos politico. Amo il Mantegna e ammiro il suo crudele vigore. Pittorico. Ma non provocherei una guerra solo per procurarmi la soddisfazione sadica e homoerotica di buttarli a morire i figli di quelle. Di quelle! A cui è stato allergico il premio nuziale! Perché facessero figlia, figli, figli, figli, tanti figli, infiniti figli, da mandarli a morire nella ferra, non tra i Eros arriva al regno di demenza. Una libido, una foia pittorica e teatrale ha condotto la Italia al sacrificio durante il catastrofico ventennio. Non una ratio, un nous, una coscienza etica, uno spirito religioso. Religione non è l'accomodarsi con il Papa per averne o ispirarne licenza o assistenza alle sbirrerie e alle ladrerie. Non è il battezzare le navi da guerra con l'asperges. O imberciare dai balconi alla santità della famiglia e poi spaparazzarsi adultero ai tardi indugi di un sonnolento tramonto. È ovvio che l'aspirante tiranno, il tyrannos, prediliga preferentemente i giovani e gli uomini insigniti di coltello. dovendo predisporre la tirannia con gli schierani e coi complici, egli cerca, seduce, corrompe, assolda, inquadra schierani maschi nelle milizie, negli uffici, e gli sparge con l'orecchio triplo di spia in mezzo al suo popolo. Se non che il po' farbacco si preoccupò delle femmine. La sua esibita ed esibenda maschilità, sopraccitata da stimolo insano, lo sospingeva a rivolgersi alle femmine che lo incupivano nel desiderio. Avvertito della importanza che la femmina può avere nell'organico della famiglia e della società, con il suo fiuto di furbo di provincia, egli sente che potrà avere un qualche profitto andando a bere alle grulle, e sì che talvolta le sono, che seppure hanno senso e qualità politica, talché poi quelle ti vanno mugolando d'attorno col pretesto del comune amore per il popolo, in realtà sospinte da una certa ghiottoneria ammirativa per il virulento babbeo. L'organizzazione della Chiesa, con la sua liturgia, gli è in qualche senso d'esempio, di ammonimento pratico nell'atto in cui raggiunge la cadrega. La donna instrumentum regni. Il cristianesimo ha indubbiamente elevato la figura della donna nella società, ciò anche quando le dispute dei germani ponevano all'ordine del giorno la spinosa questione se la donna abbia un'anima o se sia semplicemente un'appendice fisiologica dell'uomo e un rimorchio del camion. Il pensiero moderno ha prevalso e la parificazione di diritto a parole, a parole, è avvenuta. Le femmine sono più facili da tenere e da catechizzare. Ripetono preci e letane, ma si spauriscono dello inferno con più pronto pavore. E da uno stato di soggezione etica e psicologica al maschio sacerdotale passano a indurre verso la buona causa il maschio maritale. Anime più docili. Da docio. Più utili al proselitismo. Se 100 masti urlano 100 e viva, 100 masti più le 100 femmine urleranno 200 e viva. La donna ama soprattutto l'uomo. A cavallo. Da che costa su ci sta chi comanda gli uomini e gli ondecedi per magnificenza del torace, anche se li trae verso la rotta la ruina il due di coppe al galoppo. La donna ama e sogna il militare a cavallo, il colonnello a cavallo, il tenente e il cavallerizzo a cavallo. E sproni e fanno un suggerimento crudele di quella inesorabile pressura che il maschio su di lei esercita. Lancia spada poi, neanche a parlarne. Le propongono il più bel verbo, che è il verbo infilzare. E per caracollare e spariscendere sulle reti, il busto e il collo, ma per il simbolo, la imago di un altro cavallare, progredire di un'altra desideratissima alternazione. Madonna ama e reverisce chi comanda, sogna la moglie, sogna che il suo marito all'entrare nei banchi riscuota il saluto dei bidelli. Il geometra lo chiama ingegnere, lo studente trombato lo chiama avvocato, il cavadetti lo chiama dottore, l'empirico dell'erbe e dei cerotti lo chiama specialista ed archiatra, il suonatore di mandolino lo chiama professore, il suonatore in genere lo chiama un genon de beaucoup de mérite. Un uomo di grande ingegno, com'è giusto. Perché lo ingegno è la parte studiata della chiave. E se quello sia un uomo di grande... A chi chiave e lei lo può sapere, sì o no? Le femmine hanno preferente affetto a chiappare loro espedito nelle cose sua, deliberato a parole e risoluto agli atti, da che le due cose la fanno immagine d'un sesso maschio, vigorosamente adempiente agli uffici sua, che sono l'attacco, la rottura e la penetrazione. Le femmine hanno in uggia i filosofi. Odiano ogni maniera disquisitrice degli inspelacchiati intelletti e ogni forma di critica. Guai al tentenna. Davanti all'areopago delle donne il tentenna è per tutto. Da chi tentenno balbetta incorre nella colpa, da che porge loro la immagine d'un altro tentennamento e d'un'altra balbuzie che le fastidiano tutte le ore. Ecco. Simili alle femmine, poi. Sono di molti uomini affettati di dottrine. Voglio di non altro che prosternarsi a un enunciatore di dottrine. Libidinosi, ripeterne la formula dall'autorità d'un caprone grosso che risulti più autorevole e somaro di loro. Se il maschio è forma, o detiene la momentanea forma, la femmina sembra essere la elaborata ed elaborante materia della specie. Così lui ha fatto. Ha agito sulla femmina valendosi proprio di questo meccanismo, mettendo a tacere gli altri maschi e imponendo la recettività della femmina materia organizzante all'immagine sua propria. Ed ebbe faccia da proferire, notate. Proferire verbalmente con l'apparato laringo buccale, la sporca e bugiarda equazione. Io sono la patria. Io! Ma sono il popolo. Solo lui a sentirlo impersonava la patria. Solo lui impersonava la causa dei suppopolo con 4P. La carenza di facoltà critiche e l'assoluta incapacità di documentarsi criticamente che è propria di tante donne nonché di moltissimi uomini. Lasciò aperto il ricettacolo delle loro psicofiche riceventi. Senza far credere a codeste osannanti di essere lui, l'unico genitale eretto disponibile sulla piazza, l'araldo dalla tromba d'argento, l'organo generatore dominante, il fallo paterno padronale precipuo. E al nome stesso dell'Italia fu accodata l'aggiunta di un attributo. Italia? Mussolini! Là! Nella piccionaia! Nei colombaio! Una classe delle sofoniste fanatizzate! Un operaio di soffroni e principi reali da lancheggiarsi e sgretanarli dal giorno! Tutti in giro, tutti in giro! Spalancati la lingua cantante dal gozzo. Sull'ovario di molte il priapo immagine agì con distribuzione reale di doni e di favori tangibili. La mania dell'introito del possesso fu stimolata e soddisfatta dalla grande imago da cui fuoriusciva carne ciurmante che lei retì. Il grido cuce cuce del marichello arzillo. Il cuce maritale, divenne grido esasperato fuori della strozza della gentil coniugata, che di quel grido intese subito venire in tavola fumo e arrosto. All'entusiasmo metà vero, metà simulato, di codesta rispettabile furbiciattoleria di borghesuzzi a ventre vuoto, germinò l'entusiasmo iperbolico, scenicamente ululato, il borghese a ventre pieno. Entusiasmo per il cuce, Entusiasmo per l'arrosto, per il pollo aureolato garantito dal cuce, Knoc signo vinces. E tutto si conchiuse in una fede. La fede in una formula. Ma che sarebbe mai questa nostra povera Italia senza quell'uomo? Meno male che quell'uomo c'è. E via Magnanze, Firi, che è pronto! E che è strozzazzo, Firi? Se no, se fredda. Lui, il Fallos. Pensa tanto che chi ha fame non adora più lui, bensì il fornaro. Viene ad intendere che il ripartitore del pubblico danaro era lui. Lui, mietitore degli universi e frumenti! Lui, sovrano, seminatore, traghettore, pubblico! Il beneficente solo era lui! Il fondo aureo e le carte fabulanti farfallazze della Banca Italia erano venute da lui. L'idrovora, l'alternatore e la draghiatrice, ma erano in lui! La mucca milanese la mungeva lui! Sì, quella mucca che più la mungono e meglio si sente! Anzi, era lui la mucca! E voi direte, il problema dello sfamare il popolo italiano, cioè i 44 gloriosi milioni che tirano quotidianamente la carretta e imprecano con incredibile turpiloquio il nome santo della madre, detta altresì da taluni loro a Madonna, e seguitano a rifigliare tra un cataclisma il seguente. Il problema dello sfamare è angoscia antica e perenne che si propone a qualunque reggitore della Italia. Ma non il despota stato ladra lo risolvette con il vietare l'immigrazione e col macchinare la sua bambolesca scicchionata! E torniamo alle nostre care donne. E le videro in lui il portatore del verbo, oltre che del nerbo. Il portatore del modello formale del branco, il vessillifero della spaghettifera patria con la pomarola alloppa, l'empito spermatoforico della gloriosa stirpe divenuto persona. Talvolta bastava il sogno, l'aimago. Le più pazze, le più prese dall'aimago, non abbisognavano né marito né ganso né drudo, che? Gli bastava l'idea del cuce e della patria. Se gli bastava immaginare il cuce nell'atto di salvare la patria, da sentirsi salvate e pregne, anche loro in compagnia della patria. Una di queste pazze riuscì a fare un figlio con il ritratto del cuce. Ed ebbe il pupo al nascere, le quadrate mascelle del mascellone. Tanto che poi lo ricoverarono direttamente al Cottolengo, dove il mostriciattolo pisciò, cioccolatò, crebbe e proferì apoftegmi, del tutto simili a quelli del padre. Madonna, quando isterica e oca subisce, come non altra cosa, il ritratto. Piange sul ritratto, si bea del ritratto, galazza nel ritratto. Figliata dal ritratto concepisce il rifigno dopo essersi coniugata col ritratto. Lui fece tutto l'involto di padre, di sbirri e di femmine, ma chiavellò e ragghiò potentemente davanti alle femmine in effetto. Oh che già! La via con tintinnio di sperone a calcagni e sperone a cavallo e cocotti venò per tenerle buone onninamente fascinate di lui. Alla mia signora, lei in fu l'armada per il cuce. Oh, le cognosce, no, Madonna Santa. Le domà, lei cuce. L'idea della patria per lei, ma per lei le tut. Le, basta che ghetto che non la so a Italia. Sovvenire alla donna povera. Massimi alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza inoltrata. Alimentarla durante l'allattamento. Alimentare e portare all'asciutto il bambino, perciò maternità e infanzia. Pare meno ziale. Sento qualche migliaretto di liruccia. Eh? Non a tutti si noti, no, a chi bercia nei radoni cuce cuce, a quelli che sì e quegli altri che no. E questi premi e queste largizioni compromissive venivano presentate alle aggiudicatarie madri come dono del cuce, provenienti dalla bontà propria e dalla propria scarsella del cuce, che lui come lui, viceversa, del suo non avere non aveva mollato un centavo. E tu vedi, l'hai mago del dittatore Cacchio, ma si univa, ma si saldava nelle carni delle sofronie. Il cuce, la patria, l'impero etiopico, il Carcadè, le verghe littorie, i cannoni protesi della Littorio erano per sempre incorporati, consustanziati e saldati nella protezione dello Zeffirino. E tu vedi ora il gioco. Se fu ben giocato, non è dunque stupore le femmine l'abbiano così avuto nel fegato. In del fili! Come dicono a Milano, lui era il genio tutelare dell'Italia. Lui gli aveva insegnato a essere uomini che prima di lui erano donne! Lui, cavalcatore di cavalli e di femmine in gloria, lui sì, sederone, bellone, fezzone, buccone, provolone, stivalone, maschio-maschione, detentore del barile unico e centrale dello sperma. E la moltitudine delle dame gli tarantellò e gli trillò d'attorno, pazze o altre callidamente ridenti. Cuce, cuce! Cuce, cuce! Alle bagnature di Riccione o di Ostia o di qualunque altro lido dove egli apparisse ignudo del torso, con tettarelli sua, che niente infante appetiva. Alla trebbiatrice, a inghirlandare il trebbiatore, a tessergli d'attorno lor festevoli carole, travestite da ciocciarine o da villanelle pometine, con lor cappelli di paglia ondulati nell'effimero spiro del mare. Oh, i bei cappelli di paglia! Oh, nastri e carole, corsetti velluto fiore, dolci arditi stornelli, i melanconici canti, un po' nel naso per l'appunto. E lui, lassù, tumescente, a torso nudo, là, con un cappello d'ortolano sul provolone, là, in coppa alla macchina, mo torso nudo, mo poppe in fuori, mo esibire quel che poteva esibire, mo dava zinto là in su. Due lucchi d'orno d'orno i capezzoli. Ma erano i capezzoli del cuce, bisognava gridare. E poi, cadeva allora la stagione delle scuole. E della riforma scolastica, del libro scritto e delle giovani italiane. I battaglioni, le gonnelle nere, calze, giubbetti bianchi, neri fezzuoli e scarpaccini, attacco piatto bebè con occhioni roteanti e d'avorio denti, in un sciocchissimo aereo di vispo teresia, a rimanerne incitrullito il creato, sfilavano ai canti della rivoluzione. Un corale di vocette nel naso, una coralità e corali cantava, andava con vispo teresoi di panattoni mal degumentati dalla vispa gonnella in pieghe e nera, sculettando e naticando a passo marziale per via dello impero del Cacchio. Sculettando sgamocciando a tutto vapore con tutto il macchinozzo del bacino e dei cruni, tanto mal conformato per quella sorta di pudding. Ho la ciapa di chi, ho la ciapa di là, le nanonzole, e quella manchina, e quasi manchina, ad ogni passo dietro la fanfara del rincoglionito Quirino. Polpote e bambocce annaspavano con farine tiano simultanismo lungo l'asfalto guerriero. Polpone e cicce, e bisognava chiamarle maschie anche loro, da che tutto allora era maschio, e insino le femmine, e le balie, e le poppe della tubalia, e l'ovario, e le trombe di Falloppio, e la vagina, e la vulva, la virile vulva della donna italiana. Andavano, andavano verso lo scheletro del Coliseo, le festose nanerottole, e cantavano gli inni della revoluzione di bravazzi, sopra i tacchi sciatti bebè, tutta quella ciccia ovarica aneggiava verso le ruinose alture dell'anfiteatro. E erano delle povere grulle di figliole, retrogradate a bimbe di 2 anni. Madonna, non è da farne battaglioni di viragini o amazzone senza cavallo, a lasciarla fiore singolo e splendido, desiderato per sé. Cervello di donna non sarà cervello di Plato, ma pur sempre cervello. Da non lo retrogradare all'ecolalia della bimba treenne quando la ricanta la poesiona. Anima di donna non sarà l'anima di Enea padre, ma un'anima, per quanto fica, pur sempre la è. Quale anima? Noi lo discerniamo in quelle donne splendide che hanno medicato il dolore, compatito le angosce, interpretato i pensieri, fatte sue le speranze, condiviso il volere, presagite le delibere, confortati gli atti, assistite in miserata la miseria e la battaglia e la morte, dato il sangue, data la creatura alla vita. Non è il sesso per una cieca e pluralizzata meccanica. Che? E se fosse? E basterebbero pupazze a soddisfarmi! Pupe di gomma! E se ne potrebbe commettere alla grande Pirelli di varia appropriata misura, sì, con un muscialino. A vedere, belle dritte da fianco, come i modelli delle biciclette da si poter rienfiare con la pompa. Codeste guagliate a battaglione. Lui, e che voleva? Forse averle tutte per sé? Che no. Quantunque pazzo, lui ti mandava l'Italia, la rifigliasse 8 in 8, come la conigliera. A ne cavar figli, figli, figli, figli, figli, da mandarli alla guerra, guerra, guerra. Erano spediti a dissiparli, a morire nei mari, nei monti, nei deserti, nelle nevi. Ma senza panni, senza calze, senza armi, perché lo spirito vince la materia. E scarpe mosce di cartone, e chirurghi a tagliare. Così persero piedi e gambe gli alpini, come rincasarono quei 2 reni incapaci. Talvolta, sebbene ormai disseccate da tempo le lacrimarie glandole, giovane spentosi a 21 anni a Piemonti senza ritorno, perché i ciuchi avessero a ragghiare di patria e di patria. I-a, i-a, eia, eia! Dentro il sole baggiano della loro gloria. Fate, fate.